Ah, mama, la lermo. Ah, la giovere, comunque, aere, aere, aere. Ah, mama, la lermo. Ah, mama, la lermo. Ah, la giovere, comunque, aere, aere. Ah, mama, la lermo. Ah, mama, la lermo. Ah, la giovere, comunque, aere, aere, aere. Ah, mama, la lermo. Ah, mama, la lermo. Ah, la giovere, comunque, aere, aere, aere. Ah, mama, la lermo. Lermo, lermo, lermo. Ermo, ermo, ermo, ermo, ermo, ermo, ermo, ermo, ermo, ermo, ermo.